らいで終わったってもらえるんだよ。次はやっぱりパラボで、この話にはあって、その、ディレクターで言って、ゲームプレビューを止めてたんで、これらしく言って、ドラフィー。 Ma infatti, prima devo girare tu ieri, ma poi stavate parlando che dove è stata la posizione. Vabbè, avanti. Ciao Eugenio. Gappa gappa, dai, già ti ascolto, basso basso ma ti ascolto, dai. Ehi, come vai? Dove siamo? Porto Torres? Ah? Ehi, ehi, avanti già. Allora arriva Santiago 5 Radio 5. Vabbè tu la zona ce la prendi in pieno già. Capito? Io te l'ascolto, Massimo l'ascolto. Quanto l'ascolti? Quanto hai di segnale da te? Segnale quasi uno. Vabbè, qui te volete l'altro, già vai che sia segnale 3, dai. Ma del coso sta dicendo? Del 9.000, del 4.000, del 3.009? Sì. Sono tutti così, Luca, le devi dare due segnali in più, sempre, basta, sempre c'è bisogno di tararlo, basta che dire due segnali in più, sei a posto, hai fatto il gioco, ho già appurato io. Ma infatti, da 1 a 3, dai. Certo, io arrivo al 5, ma col Galassi è perfetto, è giusto. Passate una bella lottata, se volete segnate, non c'è problema. Lungo vestito, come volete, ci sentiamo, ciao a tutti, ciao! Ciao oggi, io incubino nel buio, faccio tutta Roberta, avanti Roberta! Cosa ha detto? Cosa porta al micro? Incubino nel buio, ha detto di sognarlo se vogliamo, nudo, vestito, come lo vogliamo sognare? Ah, pensavo stesse parlando di la gente che è arrivata, che ha portato microbi, avevo capito microbi, ha detto microbi non avevo, invece incubi. Calma, avanti Fabio, poi fai girare per Luca e poi se c'è il cammino lo facciamo riprendere. Calma, ma sapevo ci fosse anche Luca sul canale, no? Non è che salutato, che vergogna. Ciao Gina, buon lavoro allora, alla prossima. Sono qua, che tengo, non è una già sei gana, ma già sei gana, poi vabbè, come te ti sdrai, adesso il baracchino vicino al letto, vedi un po', vuoi che posso anche sedere, che ne ho uno dove faccio i lavori miei, la mia scrivania, c'è quello modificato però lì, invece l'altro da 25, sai che me lo porto qua tanto, lì non lo uso poco e niente, poi non riceve niente, non ci vuole l'antenna. Dai, parla la stazione di così quando sei da lei riesci a modulare, così anche lei magari ogni tanto riceve fuori, è una bella cosa e se la prende un po' di passione, vedrai che entrano altre ragazze, vedrai. Ti so già dicendo che non gli piace, fidati, non gli piace, no? Lei preferisce stare guardare la TV o il telefonino un po', capito? No, vabbè, se piazzo lì anche, è un casino fa, no? Cioè, sono attaccato lì e con lei quando sto, mai. Tu hai ragione, in questi casi ti ricordo Luca, e spendi l'apparato, ma magari devo quelli, spendi l'apparato, vai. E poi non c'è tempo per lei, lo uso qua, sono qua, vabbè, non è che così, non è che sto molto come prima, però comunque lo piazzo là e mi attacco di là e buonanotte, no, non fa là. E infatti poi, insomma, va bene, infatti, però ti devi fare a forza per certe cose, poi così tempo alle altre. Vedi, uno ha combattuto per questa cosa è Roberto, che ha un sacco di passione. No, stavo pensando a Luca, adesso metto che con Riccardo non è letto, ma il PTT col pollicione lo accende, lo schiavi. No, non sono con Riccardo, sono seduto, no, c'ho se... c'ho sopra il comodino, là. C'ho... mi viene benissimo, ma comunque volendo me lo metto sopra, il PTT, il microfono è l'uso lo stesso. Perché se ti metti col dito del piede, te lo metti di fianco ai piedi del letto, il baracchino, non sai neanche alzarti, col piede, tac. No, poi mi puzza PTT, io mi puzza di piedi, non va bene, dai. Se tende un grado di B. Vai, Fabio. Cappa, ma guarda che costa poco procurare una di quelle perette da letto, vintage, capito? Ti facciamo il contattino a rete del microfono amplificato, e tutto sei bello accovacciato, di tranquillo, quando devi parlare c'è la peretta in mano e schiacci. Io ce l'ho di un Kenwood, però di un sito amplificatore, il comando microfonico a pedale in rotazione. Che fuori. Comunque oggi ho ricevuto un regalo, Robert, un National Panasonic. Ma di radio che cosa? Fa un radio ricevitore portatile che lavora con tre torce, tre bande, e c'ha la KG da 5,5 a 10, praticamente fa tipo dai 48 dai 30 ai 48 minuti, 49 minuti. Guarda, adesso ti mando due fotografie a te, visto che sei appassionato quanto e più di me, ti mando due apparecchi e poi mi fai commenti. Aspetta due secondini, riprendi. Cosa? Vabbè. No, riprendi che sto facendo due foto, le sto mandando a Fabio. Fabio, quando è che ti decidi a metterla questa antenna? Non ho capito, Robe, cosa hai detto? Ha detto che sta facendo due foto per mandarmele, capito? Solo che tu hai distratto, non hai sentito. Oh Gianni, niente, adesso guarda, ho delle cose di famiglia da fare, purtroppo lo sai che è una situazione un po' complicata. Proprio domani non è il giorno per una certa visita. Dopodiché organizzo con Antonello, prima leggo a lui a un piede alla staffa di qualche antenna che c'è sul tetto, poi leggo l'antenna a lui, poi io mi leggo l'antenna, poi ci leghiamo insieme al palo e se lo cadiamo è meglio, perché se cade uno cadono tutti. Cazzo, un travaglio, se forse era meglio che facevate salire i vigili del fuoco. Sì, ma deve essere una brava a tararmi l'antenna, però poi Ma montata l'antenna, come fate a montarla sulle tegole? No, non c'è tegola, solo che il tetto è scosceso, capito, di lato, dove devo andare a passare la guaina. E poi questo palo che è casato male, bisogna trovare un sistema per riuscire a toglierlo senza che cada giù, perché se cade giù sul tetto, soltanto fa un buco nel tetto e tocca di fare l'isolamento. Se invece cade giù dalle macchine, ti puoi immaginare. Se non cagi una terra che bassona, no, non cercate di ancorarlo bene, poi allucinante. E poi la roba lo fate scendere il palo dall'interno. Sì, dall'interno c'è il posto, cioè siamo arrivati sulla foto di Roberto. Questo è il satellite, fallo qui, bellissimo. Un ricevitore Grundig, veramente furioso, ma bello davvero, complimenti. Di quelli ne ho due, ne ho uno è nato come muletto. Gianni. Vabbè, ma uno come muletto se ti avanza ce ne siamo d'accordo, visto che ce l'hai doppio, se vuoi. No, non lo do per niente. Non sai quanta gente me lo sta chiedendo quella roba lì. Mi vogliono dare un MT3000, lo sai che il MT3000 vale un sacco di soldi. Non lo posso dare, me lo tengo, non si sa mai. Cioè, se si rompa qualcosa ce l'ho di scorta. Invece Gianni, scusatemi, non fa Gianni, non vuoi più. Gli volevo chiedere se c'ha dei materassi. Luca, ne hai materassi? Cosa roba? Ma io non ti compri un casino. Hai qualche materasso in più? Non capisco. Materassi, lo sai cosa sono le materassi? No, non lo so cosa sono, cosa sono. E materassi per colicare? Lo so cosa sono i materassi. Se ne hai qualcuno, tu poi ne busco qualcuno io, da Gianni li mettiamo sotto Fabio, così se si cagge il giosso, c'hanno i materassi e non ci fanno niente. So che abbiamo vigili del fuoco, facciamo mettere il materasso con lo grappa. Ma è un'altra cosa, cioè è tutta la gente che guarda, invece tu metti il materasso, io metto male il piede, ci scivolo, e come arrivo giù poi risalgo a continuare il lavoro, capito? Leia. Comunque lo conoscevi quell'apparecchio che ti ho fatto vedere? Allora, il Grundig che sì, positivo. Addirittura uno gli ha fatto un'assistenza qualche anno fa. Bell'apparecchio, non ha avuto modo di maneggiarlo più di tanto, anche perché al tempo ne facevo abbastanza di cose, di assistenze, questo una volta che l'ho visto che stava andando, che non era il tipo di difetto che mi ha detto che aveva, che riguardava tra l'altro solo una banda di frequenza. E allora l'ho subito, l'ho messo in busta e per questo però l'ho mandato. L'altro invece non l'ho mai visto e io sono appassionato di questo marchio. Allora, tu con l'apparecchio lì, quello che ti ho mandato, il secondo, National Panasonic, sarà 70 cm di larghezza, di fotografia non rende, è una cosa enorme. Poi a fianco ci sono due casse, ti danno anche il notazione delle casse che le puoi mettere, sono caricate, non so se conosci le casse, le Altec, le conosci, Altec Linsing, le casse che facevano a tromba per teatro. Certo che le conosco, casse. Allora, se tu vedi le casse di questa roba, c'hanno la cosa superiore, le vie superiori caricate a tromba. Ma grandimi, tutto il petto sarà, con tutte e due le casse vicino, sarà 1,5 metri di grande, forse anche qualcosina in più. L'ho trovata in un mercatino, cacca, appena l'ho visto mi si sono illuminati gli occhi. Ah, c'è registrato la cassetta, l'hai vista, l'autore verso, invece la palazzola e più c'ha il ricevitore, un amplificatore, pone in più il coso. E la cosa bella è che è in verticale, non è come quelli dell'epoca che erano in orizzontale, questo è sviluppato in verticale, come può essere un radione, però è enorme, se tu lo vedi ti pone le mani in testa, quanto è grande. E il Grundig a livello di coso, di aperto, c'è anche le bande laterali, non so se te lo ricordi, c'è una ricezione, quel Grundig, una cosa mai vista, sinceramente non mi immaginavo mai una cosa così, dentro casa, con l'antenna sua, c'è l'antenna sarà 1,5 metri, c'è una ricezione, poi c'ha tre tipi di coso, di larghezza di banda, nessun ricevitore di quel genere c'ha, anche lì come c'ha la larghezza di banda regolabile, era uno dei pochissimi ricevitori, poi c'è l'accordatore, ci metti l'antenna esterna, si può anche accordare il coso, ma c'ha un suono, tu l'hai sentito sicuramente, è una cosa da paura la ricezione di quello lì, è una cosa mai vista, costava all'epoca, quando l'ha preso questa persona che me l'ha regalata, quando l'ho vista a casa sua, poi è morto il marito, mi ha detto ti devo fare un regalo, lo vuoi? Adesso lo voglio, ha pagato 700.000 lire, stiamo parlando negli anni 70, era più di due stipendi per comprarti quella roba lì. Sì, capa, c'ha, sì, il controllo della larghezza che è meraviglioso, quello che era così. Fantastico, è fantastico, ma se tu hai visto la quotazione dei fratelli minori che se li metti a fianco spariscono, cioè differenza tra impianto stereo e radio tracciabile, perché sono piccolini, satellite, anche in versione con il manico sopra, tipo portatilino, delle dimensioni di un radio mangianassi, no? Monofonico. Se tu vuoi la quotazione di questi, mettiamoli in testa. Hai visto quanto li vogliono? Minimo 300 euro se è scassato. Sì, lo so, infatti quello che ho io è nuovo fiammante con le istruzioni, tu proprio uscendo dalla fabbrica, se tu lo vedi, ne ho trovato un altro che l'ha messo, l'ha venduto come non funzionante, che è uno scemo, come si chiama, l'ha messo, siccome dietro c'è un sistema per cambiare le tensioni, 2,20 e 110, l'ha inventato in posizione 110 a 2,20, è partito un dio, un annetto da niente, è stato riparato immediatamente in pochi minuti, e poi c'è l'antenna spezzata di coso, non completamente, un pezzo dell'antenna, la parte finale, siccome è ben lunga l'antenna, se non la sai usare tirandola la spezzi, è capitato a un bel di gente, e io ce l'ho di ricambio, me ne hanno dato due di ricambio, non sono esattamente identiche perché questa è leggermente più lunga, però va bene lo stesso, quando c'ho tempo l'avevo messa, però ti posso garantire, io dentro casa quel segnale bassissimo che con il CR7000 devo mettere attenuatori per tirarlo fuori, con quello lì regolando l'antenna proprio conoscendo la frequenza, muovendola piano piano dentro casa, confrontata con l'antenna fuori, sono riuscito a tirarlo fuori, c'è una sensibilità con il ricevitore, una paura, all'epoca era il top del top di tutti i ricevitori, diciamo amatoriali. Kappa era il top della produzione tedesca, perché Marchio Grundig in quel momento cioè brillava, tant'è che ti farò con la Valorosia, che c'è un po' di cose da fare anche per te, tra l'altro, farò qualche foto, lo porto, lo so, un catalogo del 1980 della Grundig, della sezione Hi-Fi, leggendo il catalogo e guardando i prodotti mi rendi conto che la Grundig aveva intenzione di essere il numero uno al mondo, ha investito in ricerca per le sfide digitali, per la cassetta, per l'amplificazione, ma veramente un sacco di soldi, cioè era avanti, avanti, avanti, avanti. No, ma i tedeschi, scusate, monopoli, i tedeschi sui ricevitori non ce n'è, a qualunque livello puoi salire, non c'è niente. Poi se parliamo apparecchi di laboratorio, guai. Questo qua, la cosa bella, che non ce n'erano di questi tipi di ricevitori con le bande laterali, questo è portatile, ci puoi mettere le pile, c'ha le memorie, mi pare c'ha 14 o 16 bande di coso, di lui c'ha la frequenza digitale, il, come si chiama, il misuratore, lo smitter è enorme per il coso, per la ricezione, e che fa anche indicare, ma tu lo devi sentire suonare, c'ha due altoparlanti, un woofer piccolino e un twitterino, ma c'ha una cosa, un suono, proprio la cassa acustica, io l'ho aperto dentro per vederlo tutto quanto, l'altro diciamo quello da sistemare, ma ti posso dire, è costruito in una vola, in un modo maniacale, tutte le levette, tutti gli interruttori, tutto in ogni angolino è studiato, il BFO, c'ha il coso, il controllo di guadagno, c'ha un sacco di cose, poi puoi far funzionare solo un altoparlante e te lo fa funzionare in larga banda, oppure tutti e due, è bellissimo per quello, è completo, poi ti spaventi come riceve, è spettacolare la ricezione, poi c'ha la banda digitale, c'ha l'indicazione della scala graduata, ci sono tre scale graduate e più c'è il coso digitale, il contatore di frequenza digitale a diodi luminosi e più c'ha l'orologio oppure l'ECD, cioè è bello, proprio io quando l'ho visto, mamma, ho detto ma lo vende, no, poi dopo un paio di mesi è morto. La signora, siccome è molto amica, una donna che ha più di 80 anni, mi ha telefonato, appena morto era il marito, ti interessa ancora quell'apparecchio? L'apparecchio? Ma ormai ci pensavo, quel Grundig, cazzo, ho detto, perché lo volevo, no, ti voglio fare un regalo, vieni a prenderlo, cazzo, sono corso a pigliarlo. Cazzo, lo ti prendo, adesso me lo sto guardando bene, bene, bene, questo è un apparecchio, non per altro, diciamocelo. La scritta professional all'altezza di Satellite 3400, cioè, vuol dire qualcosa, non è appiccicata a casa, la verità. E la scelta della sintonia a condensatore variabile e non a sintesi di frequenza, che al tempo già era possibile, ti fa capire quale target voleva toccare, il target delle persone studio, capito? Sono i giocattoli. Comunque stiamo monopolizzando, roba poverina, fra un po' Gianni dorme. Ma Gianni, io l'ho chiamato un paio di volte per il materasso, non mi ha risposto Gianni. Ehi, sei tornato! E poi proprio tu l'hai mangiato in ritardo? Oggi eravamo di torta salata. Va bene, anche tu. Portati la bottiglia dell'acqua stanotte vicino, sennò ti viene sette. E già passa, c'è ancora Fabius. Certo. Avanti Fabius. Caffa, indovina cosa sto facendo Riccardo? Sto pulendo quella radio. Che radio mi stai parlando? E che regalo che gli ha fatto tuo padre? Ah, della Nissan Panasonic. Kappa, io quando l'ho vista lontano, stavo parlando, gli ho fatto asseso, roba. Ma anche senza andare molto lontano su cose chissà come, io già vedo una radio del genere nella collezione di quelle, babbo, capito, ogni volta. Mi piace, poco mi piace, ne ho piccole, più grandi, ne ho così, proprio. Dice, aspetta un attimino, te la regalo. No, non ci posso credere, dai. Ma cosa ti ha regalato? Quella, Riccardi, qual era che riceve solo in FM? Che marca era? Dentro la scatola, ancora con la busta era, mi ha usato il connettore lucido fiammante. Che marca era, Riccardi, quello che riceve solo in FM? Si chiama Mustang CBM1000. No, si chiama Mustang CB1000. L'hai visto quello lì tu, Fabio? No, negativo, stavamo guardando la parabola, tra l'altro una figata. Poi abbiamo tenuto manco molto io e Sergio, poverino Riccardo, ha avuto ancora un po' da fare il break. Stavo per scenderci, lo sai, poi ero già a casa, gira scendo così, magari ci vedevamo in persona, avremmo fatto delle chiacchiere tutti insieme con Riccardino e con sé. Però io ci sono sceso ieri per vedere tutto il discorso, però manca il ricevitore in quel discorso lì, il posizionatore c'ha soltanto e manca l'unità ricevente, ma è semplicissimo, si mette un decoder esterno, infatti dice Natalia Ritardo, quello TV SAT, tra l'altro è alimentato a 12 volte, non c'è bisogno di fare grosse complicazioni e basta, semplicissimo il discorso. Bisogna vedere se è tarato esattamente la posizione, siccome riceve solo solo un satellite quel sistema lì, poi c'è quello Plus che sta guardando nell'istruzione, ha diverse posizioni satellitari, anche tre ne può ricevere, allora lui interessano soltanto a capire se il posizionatore in base alla posizione riesce a ritrovare il satellite, perché se non riesce a ritrovare il satellite è un po' complicata la situazione. Oh Roberto, molto semplice, l'ho visto, prima di prendere lo strumento l'ho fatto accendere, no? Abbiamo guardato la parabola si è alzata correttamente, ho visto che è partita, ha rallentato, dunque ha trovato, ha capito dove era girato la base, no? È andata a sud, è tornata un attimino indietro per farsi girare. L'abbiamo lasciata così, siamo andati in macchina, abbiamo preso lo strumentino, gli ho collegato un capo con il mio PS, immagine, 83% e 67%. Perfetto, quindi è tarato, lo so, perché molte volte possono andare in problemi, possono creare problemi se il GPS, l'indicatore di posizione del mezzo non è perfettamente a posto, magari non c'è l'antenna, chissà che cosa possono aver fatto, la cosa principale era quello lì, per cui è una fesseria, li metti il decoder e quello va alla grande. 83%, una parabola da 60 c'è, cioè, lo di risolto, no, forse è da 45 quella parabola. Quanti quantina, no, non l'ho misurata. E poi ieri mattina un ragazzino che si lamentava di aver speso tutti quei soldi inutilmente, questo decoder se lo doveva acciaccare, e ha detto aspetta ragazzino, vai un attimino, guarda il prossimo che sento che ne ha bisogno di uno, ti faccio un fisco e glielo vendi, tanto nuovo, c'è ancora il cielo, fa praticamente in scatola, ma chi lo vuole, ma che sto, hai visto cosa è successo, subito venduto. Sì, ma poi è un ottimo ricevitore, io l'ho avuto quello lì, l'iCan è un ricevitore svizzero, grande ricevitore, te lo posso garantire perché c'ho anche le prove di coso, ti posso dire funziona alla grande, ce ne avere uno di questi dell'iCan, sono fatti veramente bene, costruiti da un marchio che costruisce solo i ricevitori. Quadrado. Mi dica signor Riccardo. Ciao, oggi il marchio del criceto ci ha fatto lo scherzo. Che? Il criceto maschio, mia sorella ha voluto prendere la coppia, ci ha fatto uno scherzo. I cricetti ne sono nati. Sono nati e se l'è magnati. E vuol dire vabbè a fame, io guarda, a me non piacciono quegli animaletti, preferisco lasciarli prendere, è un tipo di animale. Meglio un cane, dai, non mi sono mai piaciuti i criceti, sinceramente la gente diventa scemo, che belli, ma lascia bene. Ok, tanto dicendo Fabio, quel ricevitore che c'hai tu invece, cos'è un Kenwood? Quello che abbiamo dato la foto con la frequenza. Che ia? KK, è un Kenwood, RZ1 si chiama. No, è bello, c'è anche abbastanza memoria, 100 memoria c'è quello che c'è. Ma dovrebbe anche di più, aspetta che lo vedo. Ah, 100 ce l'ha sicuramente. Aspetta, andiamo avanti. Bingo, 100 memoria, 100. Cosa fa quello da contare da 25 a 900? Quanto riesce a arrivare a 95? 0,905 fa. Ah, 0, in continua te le fa o a mano? In continua su tutto puoi scannerizzare, poi l'unico limite che hai è che quando fai scanner, lo mandi in scan, non puoi dargli dei limiti, non essendo diviso in bande, non ritorna su quella banda di scanner a capo, lui fa scan fino a quando non si ferma. Ho capito, ma si può mettere la scheda gigahertz per renderlo fino a 2000? Allora c'è una modifica, devi contare che tanti anni fa ti ascoltavo i telefonini con questo, i primi telefonini analogici io con questo qua li sentivo, ci sarebbe una modifica, non è una modifica, è una scheda, devi sostituire una scheda, c'è tutta la storia su come fare, costava anche 400.000 lire questa scheda eccetera, io non l'ho mai toccato, ha sempre funzionato bene, così ho pensato se devo andare più su per 90 apparecchio, tanto vale, anche perché i filtri che è il processore che lavorano su quelle frequenze lì, se disposti non è detto che lavorino bene, capito? Sì, sono pienamente d'accordo. Ok, Marti Riccardino, aspetta, vediamo se Gianni doppio rumo il materasso l'ha buscato. Gianni ci sei, o ti sei addormentato nel materasso? Nulla. Ok, mi devo organizzare per il materasso comunque, Fabio. Un paio ce l'ha Luca, io dovrei averne uno una piazza e mezzo, dai, poi vediamo Riccardino se c'è qualcosa, dai. Ok, vediamo Luca, ci sono. Luca dagli sbadigli si stava addormentando. Non ho sentito il condor oggi. Non ho sentito neanche io. Boh, strano. Ma come mai quando ieri mi arrivava così basso? Voi lo sapete perché? No, io non ho notato differenze, diciamo, lui ha due posizioni, una normale che arriva a 9.30 e l'altra a 9.40, ma ieri era 9.30. Siamo arrivati per assurdo, che avevo, sì è vero, il verificatore attaccato nella stazione, però sul cable, sul tornado, diciamo, non muoveva niente, non sentivo niente, e il tornado era attaccato all'antenna, diciamo, principale. Io non avevo fatto differenze. Riccardo, davanti a te. Ok, va bene. Fabri. Fabio, ma alla fine l'hai provata quella cosa? E comunque, Robè, oggi sono andato a visitare la stazione di un radioamatore vicino a casa, sai chi è? Piaciuta. È bella proprio, l'ho cercata anche su, quello cercato, è tornato a casa su qrz.com, ho guardato com'era prima, però era identica, vabbè, la stazione, però era molto bella. Ma dove l'hai vista, dal vivo o su internet? La prima, dal vivo. Allora hai fatto una bella esperienza, a parte l'eleganza, la cura maniacale di tutte le cose, l'hai visto solo le strumentazioni, cosa c'è di dentro e come sono disposti, l'ordine, la precisione, la bellezza della stazione è quella, perché magari ne puoi trovare con apparecchiature magari anche più grosse e più dispendiose, però cura maniacale come quella è un punto di riferimento per tanta gente con la stazione lì. Poi la cura dell'emissione soprattutto, non parliamo solo degli apparecchi, perché apparecchi magari c'è gente che ne ha povere numerosi più di lui, però parliamo di tipo di apparecchi selezionati e tutti i discorsi di filtraggio e di controllo della trasmissione è impressionante. Tanto ci sei girato. No, vabbè, già è bella, dai, non possiamo dire di no, è una bella stazione. E ora con la Chilivani? No, di Coso, non è Chilivani, c'è la stazione a Coso, a Ozzieri, dov'è? Ai ai ai. Ascolta, niente, io sono andato, tanto saluto a tutte, buonasera. Sono andato per vedere quel difetto di auto stamattina. E niente, ci vuole tutto quel carretto e poi mettiamo anche il sensore, capito? Ma scusa un attimo, ma la diagnosi l'hai messa? Sì, me l'ha fatta Claudio la diagnosi, sua Serra Secca, il meccanico che conosco. Ah vabbè, infatti ho detto dove passare, non sei venuto, strano. Vabbè, cosa ti volevo dire? Quindi è il sensore dell'ABS, così? Sì, no, si è staccato il filo, praticamente si è rotto il filo ed è andato in corto. E quindi lo mettiamo sia il filo che il sensore nuovo, capito? Va bene, dai, continuate, sono in ascolto, io ti volevo dire solo questo, poi già ci vediamo domani. Ciao a tutti. Non c'è problema, no, ma il filo è insieme al coso, al sensore, tutto intero, non lo puoi saldare, non puoi fare niente, ne abbiamo cambiato decine una volta che sono, però non c'è niente da fare, perché cambi l'impedenza, se ti metti a fare saldature e la centralina non legge o legge valori sballati e ti dà sempre difetti. Guarda, li abbiamo provati in tutti i modi, addirittura mettendo dei componenti per cercare di farlo, perché mi era successo su dei sensori di airbag, mi avevano detto dei sistemi, ma non c'è stato niente da fare, per cui soprattutto su quei sistemi di sicurezza mai fare economia, sempre cose nuove e sei sicuro che funziona. Io ho lasciato su Pignolo, io ho già telefonato a Franco Lusetto, me lo ordina lui, pezzo originale Alfa, e poi appena arriva mi chiama e il mio meccanico me lo piazza, capito? Perché la Franco prima ci andavo spesso, adesso vabbè, la macchina grazie a Dio la parola l'ha fatta lui a posto, però c'è il mio meccanico qua che abita nel mio palazzo, quindi lo faccio cambiare a lui, dai. Le 50 euro le do a lui anziché le 100 a Franco. Va bene, dai, proseguite, e non essere esagerato, Robè, che vuol dire che ne hai visto ben poche di sale radio e di precisione audio. Ok, non è una critica, è solo una puntualizzazione. Dai, ciao a tutti, ci sentiamo, non io voglio parlare, sono entrato solo per dirti questo, poi già ci vediamo domani, ciao. io, dai. Ok, vai Riccardino e poi Fabio. Ciao Claudio, va bene, arrivederci, avanti Fabio. Ciao Claudio, ben entrato e ci sentiamo quando in Puglia. Va avanti, lo bene. C'era per macchiette però Fabio, non stai schiacciando bene il PC? No, negativo, è il relay che scatta, è che devo abbassare il volume della stazione, quando satura il volume basso e ce ne sono dei picchi di voce e questo MSC è maledetto, se non sto attento mi ascolta pure roba che poi umani. Una. Già, mi hanno telefonato, non ho fatto in tempo a avvisare, dai, ero al telefono. Ma cosa che sei andato in cantina a cercare i materassi, l'ho capito, sai, grazie. No, no, è al telefono, tranquillo. E ho chiuso adesso. Abbiamo detto, se c'hai dei materassi, Gianni. Io? No, e c'ho quelli che c'ho sotto di me, adesso, quando sono sdraiato. E stavo cercando, ho detto, se ne aveva Luca, ho detto, aspetta che da Gianni se ne ha qualcuno, lo sai perché Gianni? Perché? Perché ossia che ci calano giù dal terrazzo, lui e Antonello, Fabio, così li attutiamo la caduta. Cerchiamo tutta Sassari, così almeno li mettiamo sino al culmine del tetto, così non si fanno nulla. Eia, ok, vai Riccardo, riprendi il mic. Eia, ciao Gianni, ti avevo salutato prima, come sei andato in carichetta e ti risaluto adesso. Ti saluto anch'io Riccardi, Magnato, te l'hanno lasciato, toccato a te. No, ho mangiato tutto, ho mangiato la torta salata, la cacciata, scusa, ho mangiato solo la torta salata. Ah, ciao Gianni. Eia, a me le torte salate non piacciono, ma... Oh già, ma stamattina mi ha detto, ma compra questi qua che sono un bel buoni, ho detto, stati lontano che sono per mangiare. Ma comprali che sono buoni, ho detto, vabbè, da stasera quando vado a fare la spesa, quando vengo a fare la spesa, li prendo. Sai che li ho presi? È piaciuti ti so. Non li ho ancora assaggiati. I break. Ma quelli là, quelli che mi hai indicato tu proprio. A un certo punto quando ne è arrivata solo la confezione, ho detto, Gianni c'ha ragione, tutte le scatole intorno sono piene, cazzo di sono vinne, questi piacciono. No, non beh, perché cazzo sono, non sembrano manco cracker, sembra cioccolato proprio, che tu mangi cioccolato. Sembrano un po' leggeri, sono tipo quattro confezioni dentro, giusto? Eia, va, sono poi larghi, capito? Capo, adesso li stai facendo 20 metri, fai un attimo di bianco per andare a prenderli. Sono a barrette, quindi se tu ne prendi una troppo di vivere in barrette, già sono buoni, a me sono piaciuti. Non mangiare tanti perché sennò ti nauseano poi, Ho guardato su qualcuno, scusate, c'è stato qualcuno. Avanti che vuole entrare. Su, ho messo portante quando stava parlando. Se gioco delle portanti, dai. Na, adesso ci vediamo tutti a portante, via. Vai Riccardo, ordini a qua. La portante d'oro, diceva Falco. Buonasera. Che è Tonino? Come tu sei? Io. Ciao Roberto, ciao Gianni, ciao Kice. E che radio è questa? Cosa? Che radio è questa? Sto usando le tane più 3B da tavolo. E la radio che cos'è? Un attimo, non ho capito. Che radio è? La radio di solito, sempre, che uso io, col mic normale, però io ci ho messo il microfono da tavolo. Ah, qualcosa di differente già c'è, allora, l'orecchio mio è ancora efficiente, mi stavo preoccupando. Ok, dai, avanti di nuovo Tonino, poi c'è Gianni, dai, mica. Cosa mi viene Davide, Fabio e Riccardino. Ciao Fabio, ciao Riccardino. Ma il migliore almeno come radio, vabbè. No, è molto forte, aspetta, ti guardo il livello perché orecchio mi sembra un bel. Ok, guarda un po', subito Riccardino ti rilancio. 1, 2, 3, prova di modulazione, dimmi un po' com'è Roberto. No, è forte, è molto forte come radio, non sei saturo ma sei forte. C'ha uno stacco strano metallico, tink, cos'è un MB+3 questo? No, c'è quello grigio da tavolo. Rimane leggermente un pochettino carica di acuti, però la radio è molto forte e chiara. A che livello c'è i microfoni? Ah, massimo ce l'ho, il mic gain a metà. No, va bene, dai, già è abbastanza forte. Oh, Tonino, ma l'hai provato il Midland con l'MB+5? No, perché allora in questi giorni ero incasinato, da una parte all'altra, poi stasera risuonava magnifica, domani devo partire per un attimo ritardo. Insomma, sono incasinato forte. Da giovedì comincio a ripristinarmi, sono tutto per me stesso e la stazione. Vabbè, tanto dovrebbe avere lo stesso attacco, attacco Midland, quello lì. Allora, quell'attacco lì, quel microfono lì, qua va male, perché mi ne sono portato, devo invertire i cavi, i cavetti. Nel Galaxy te l'ho detto, devi mettere quelli di sopra sotto e viceversa, se invece lo metti nel Midland, penso che gli attacchi siano uguali. Vabbè, proverò, perché adesso dovrei avere una spezzola per attaccare quello lì, capito? Accomodato nell'antenna, arrivare lì, non ci arriva, devo farmelo. Altrimenti c'era Riccardino che mi stava chiamando, dimmi Riccardino. Riccardo. Ma sto parlando al telefono, scusate. Ok. Riprendi, dai, dov'è? Eia, c'è anche Fabio, l'ascolti a Fabio? Sì, Fabio, vieni avanti. E non è fare bidone come stasera, me. Ciao Kawasaki, hai visto che cambiando la marmita a cambiare il rombo? Però ti sei spaventato, ho trovato Santiago 2 e tu lì, con l'antenna rombo, poi si sei in fotoscala, perché di Carlino veniva forte a me. Cazzo, una modulazione che va via, che ho detto, questo ha fatto miracoli. Guarda che l'idea, devo scherzare, la dirica addio, pensa tu. A primo acchito, Marco, l'ho riconosciuto, vabbè, com'è? Com'è, tu dici? A primo colpo, non te l'ho neanche riconosciuto. Nemmeno io, poi io ho sentito il modo con cui parlava, ma ne sono accorto da quello. Se no la voz era una bomba. E campa, bella stazione quella di Riccardino, una bella posizione, una bella antenna, un bella apparato e anche un bel microfono. Diciamo che rispetto alla mia stazione è precisamente il contrario, ecco. E vabbè, non si sottovalutare, si cresce. Ti innamorare di quel microfono però. Com'è? Non innamorarti di quel microfono. No, negativo, io sono affezionato a questo giocato che stai ascoltando. Questo pezzo di coso tutto rincerottato. Se ne trovo uno nuovo, bene, se no continuo a tenermi questo. Bello è bello tutto, però le abitudini sono le abitudini. Claudio. Ehi, ciao Tony. No, ho detto non ti affezionare molto a quel microfono, ne avevo uno solo purtroppo. Dimmi Tony, no, non mi ha risposto Tony, se non mi risponde non posso fare niente, io sono molto preciso nelle cose. Ho carta bianca e per carità, però io voglio sempre la conferma quando la roba non è mia, capito? Ma è un messaggio, invece nulla, aspettavo comunque. Io ripeto, da ieri stesso l'altro me l'ho comprato, non è che fatto poi. Se si decide anche lui, mi compra anche l'altro, io problemi non li ho di comprarmi, anche se ne ha due o tre, mi va bene. E nessuno non ha problemi, io ho una giudizia di microfono, seguo sempre il comparente, non è quello il problema. No, non ce l'ho fatta, Tony, ero impegnato, mi sono anche dimenticato. Ero incasinato oggi, mi sono anche dimenticato. Però adesso vediamo, domani le rimando un altro messaggio, se mi dà l'ok ti chiamo. Se non ti chiamo vuol dire che non mi ha dato l'ok, capito? Perché io la mattina sono in ufficio, c'è gente, telefono, qui, là, bim, bum, ma sono andato alle poste, non ha giubugato bene, c'è un sacco di cose da fare la mattina, capito? Quindi poi magari mi esce di mente se uno mi ha chiesto qualcosa. Poi stasera ero a casa, ma voglia di fare radio non ne ho, quindi. Capito, se non te l'avrei sentito, te l'avrei detto, dai. Abbi un po' di pazienza, perdonami, ma in questo periodo ho altri, come si dice in gergo, sporcaccione, ho altri cazzi per il culo. Avanti, riprendete e rimango in ascolto, dai. Ok, dai, non c'è problema, non c'è tutta questa fretta, già ne ho microfono, gà. Bene, Riccardino, se hai ripreso, sì. Guarda il telefono per me. Sono qui, va bene. Robè, ma per caso, perché mi ha chiamato ed ero con... stavo parlando al telefono, ma per caso si sta chiamando un radioamatore che forse ha chiamato a me e qui ha dirottato la chiamata a te perché non gli ho risposto. Un attimo, Riccardino, che sono al telefono. Vabbè, lasciamo perdere, da. Stai affezionando il radioamatore, Riccardino. Stai attento, i radioamatori sono cattivi, Molto, stavo parlando con mio padrino. Con mio zio Fabrizio. Ah, vabbè, ce ne sono bravi ma ce ne sono anche cattivi, sto scherzando. Non ti affezionare troppo ai radioattori, se no ti coinvolgono poi. Riccardi? No, mi ha chiamato il pioniere radioamatore, il radioamatore pioniere. Riccardi? Ti chiama lui adesso. Ok, va bene, perché stavo parlando con Fabrizio della radio e non sono riuscito a rispondergli, mi sta chiamando. Sì, infatti mi ha detto che ti richiamavo. Cosa volevo dire? Chi è rimasto? C'è Fabio, Claudio, sentita su di sfuggita, e doppio numero rimasto. Una mezz'ora. Ah, non lo so, perché poco fa ti eri allontanato, ti ho chiamato tante volte e poi dice non so dove sei andato. Vabbè, comunque non c'è problema. Lasciamo, c'è anche Tonino avanti tu. Io mi sono già preparato tutta la roba, i documenti che devo portare domani per l'elettrocardiogramma, cazzo ci annuvano, ma comunque non mi importa niente. Uia, infatti anziché Nuro andiamo a Osaro domani, tutto pronto ci avevo, ma lo lascio in macchina, non mi frega niente, e vado a trovare mio figlio, almeno mi faccio un po' di compagnia con mio figlio e la compagna. E mangiamo roba buona. Fate il bagno, vai lì alla spiaggia vicino a San Giovanni, ti fai pure il bagno, poi passi a Torpè, non salta la diga, stai attento che se c'è acqua trasborda, è un po' pericoloso in Chivi, mamma mia, d'inverno, vai d'inverno, lì c'è sempre l'allarme quando fa delle piogge, perché ci sono stati dei morti di lì vicino a Torpè, quando c'è stata l'alluvione a Olbia, lì è pericolosissimo, perché con la diga è pericolata. Di quale diga stai parlando? La diga di Torpè. Ma mi sto parlando di Poggiara, però non vanno da che fa un Torpè. Sono vicini, sono a pochi chilometri. Vabbè, ma la diga di Poggiara è la diga di Poggiara. È appena vannuta. E fate le gatte, ed è meglio che si sia allagato tutto, almeno lo fanno nuovo. Ci ho lavorato io a Poggiara, vabbè. Ed è un posto così bello e tranquillo, e soprattutto in grande, non in declino, ma in supera anche la diga del Tirso, non so, che è la migliore che c'è in Sardegna. Siamo a un bel posto, io ci vado spesso d'estate, tutta quella zona lì, poi proseguo, vado a Cosro, a Roseto, a ma poi uno la sirena di carabinieri, passioneria, cazzo. Sto fa sordo, cazzo. Ma perché non la cosa, Nicola, cazzo, quella suoneria, cazzo, tante la carabinieri, così si riesce da Romanzano. Ma è po' come le chissue. Immaginati in un ufficio quando sono alla sirena, sì, noi, ma l'ufficio postale, un banca, cazzo, ti capisci, la ragazza si assusta. Allora, l'altra mattina ero in officina a lui, ha suonato il telefono, ha detto, cazzo, carabinieri, dove sono? Ho il mio telefono, dite vecchia, ragazzo, ma chi lo ricude a terra, ragazzi, geggi? Tipo quando c'avevo io quell'affare che faceva quipu, quipu, quipu, quipu, quipu, quipu, quipu, e aumentava sempre di più, cazzo. E piaceva anche a me di un amico mio, cazzo, questo sole. Infatti mi ha chiesto di darglielo, perché il cane impazziva quando lo sentivo. Quindi la suoneria che c'ha Roberto della sirena? Sì, la suoneria del telefono che c'ha sirena, esaurita lì dove... L'altra volta ti giuro, ho pensato, ma un'ambulanza sta passando. No, la suoneria sua è veramente, non so come faccio a tenerla perché ti fa sordo. Quando c'ha il telefono in officina, rimbomba tutto, pare che sia una rivenda, vero le carabinieri a buttare a tiro. Vabbè dai che mi guardo un film, sono in Quirix. Se ci siete più tardi, e se no buonanotte a tutti. Avanti Fabio, non hai girato l'antenna oggi? No, oggi sono in commissione, anche domani, perciò salviamo un pochino, anche devono coincidere un po' di cose, capito? Comunque la vediamo in questi giorni, insomma, abbiamo tutto, vogliamo solo salire e ammazzarla. Ehi, ehi, va bene. Tu ci fai vedere come arrivi allora, dai. Ti metteremo anche a te nella lista delle portanti, forti. No, negativo, io voglio abbonarmi ai quattro passi. Anzi, ho un apparecchio con il quale riesco a uscire anche con un watt e mezzo, un Intel 34 canali. Perciò più basso esco, per me è meglio sto, è più simpatica la cosa. E tu immaginati che sicuramente sarà il segnale più forte che arriva qua, a prescindere che io penso di essere quello più alto lì da te. Tu stai arrivando con quell'antenna che c'hai, che è un'antenna attaccata alla finestra, quanto sta arrivando Gianni quando è attaccato. Quindi in pratica stai arrivando 9 più 30 quasi, capito? Quindi vedi tu dove vuoi andare, forse la vicinanza, non lo so. No, qua ho scoperto una cosa, è che siccome è schiacciato ai palazzi, io ho vari punti di apertura, per esempio per caso di ricantino sono molto aperto, perché arrivo bello forte, ma se vedi come l'antenna, cioè ti metti male in testa, non è possibile quel segnale, capito? Così come forse di riflesso, forse in qualche modo, sono aperto verso la tua parte. Però a dove sono tutto chiuso? Dunque se utilizzo un'antenna normale tu dovresti sentirmi più o meno così, e più nemmeno. Non lo so, ma forse arrivi più forte, boh. È un segnalone quello che hai qua con quel tipo di antenna, te l'ho detto. Arrivi a livello beh alto, qua sì, quanto è Marco Condor per farti capire? Liscio, perché poi Marco quando attacca è 9,40. Liscio sì, quanto è Marco Condor? Quindi Marco è leggermente più giù, tu sei leggermente più su. Ora o io vi vedo a tutte e due perché sono dei segnaloni, boh, vabbè. D'accordo, dai, continuate, al limite faccio qualche altro intervento dopo, dai, riprendi Tony. No, ma comunque mi arriva qua, Santiago 7, la rete è comprensibile, però giustamente c'è molto a correre, non lo sai, ho propagazione, comunque già va bene. Va bene, hai ripreso tu? Come un uomo che andava a finire la sirena. Vabbè, sta con la telefonata, avanti già. Ehi, Fabio, ma tu c'era il Turbo 2001, no? Naru. Turbo 2001 con la sabata magnifica, centro ringhiera, cavolo. Ecco, quella va bene per la macchina mia. Ma intendi? Ehi, Ezra, vedi pure, però che è un regalo, è una regalata, capito? Cioè, dovevi vedere la scena, Giovanni e Antonello che sono arrivati con l'antenna. E Antonello, mi zitto, mettiti questa così parliamo, va. No, sto scherzando, è un ma grande la Turbo 2001 per la macchina mia, voglio mettere un'antenna poco evidente. Non è arrivata l'antenna tua ancora? No, sono andato ieri, già, non è arrivato nulla, ha detto che non gli sta arrivando nulla, ma secondo me non ne ha ordinato. Cosa non sta arrivando nulla, ma cosa dice? Mi è arrivato ordinato da Cosio lì, da Tonino, dei connettori particolari che mi servono, sono arrivati l'altro giorno, cosa sta dicendo? È lì che non gli ho ordinato, fate sempre uscire. Fino a quando non rientra Antonello in quel posto, non conviene neanche andarci, perché intanto lì non fa niente, è tutto Antonello quello che fa, capito? Ma Antonello mi sa, mi ha detto che è in coso, mi stanno dando la disoccupazione, qualcosa del genere. È in cassa integrazione, mi ha detto lì. È in cassa integrazione, sì. Ma deve rientrare, penso che rientri adesso, capito? Penso che rientri adesso, forse può essere rientrato anche ieri, sicuramente. Perciò conviene andarci quando c'è Antonello, perché Antonello tu dici, Antonello mi serve questo, non ce l'ho, me lo ordini, prende, tu lo vedi, e prende il brogliaccio, scrive, capito, e poi fa l'ordine. E non gli scrivi, sì, te lo ordino, ti saluta, non hai scritto nulla, però. E mi ha preso anche il numero di telefono e tutto, no, però mi ha avviato, mi sa che se ve lo può le scatole la ordino da internet, quando mi chiama per dirmi che è arrivato dico che l'ho già ordinata perché non posso aspettare 6 mesi, no, per un'antenna. Io come ho fatto con le valvole dell'amplificatore, ho fatto così, era vivo ancora signorina Giovanna, capito? Gliele ordino io signor Cla, gliele ordino io signor Cla, cazzo non ha mai ordinato. Io ho trovato l'occasione tramite Gianni Capri 2, me li ordinate, sono arrivate, dopo 3-4 mesi mi ha chiamato, guardi signor Cla che sono arrivate le valvole, guardi lì, buone di stare in culo. E non gliene prendo. No, gli ho detto signora Giovanna, adesso non mi servono, lasci, quando mi servono già me le prendo, tu più pigliato non è, tanto non ci pigliato io. Beh, se ci mettono 100 anni, anche la GPC mi fa così, ti dice passa fra una settimana, poi l'altra settimana, poi l'altra settimana, sono tutti così. Invece se devo dire su internet in 3 giorni virai a casa e non hai problemi, visto l'antenna come è arrivata in 3 giorni. Sì, ma è così. C'è gente che pensa di prendere per il sedere agli altri, e quando uno ti fa un ordine, lo devi evadere. Se non lo evadi l'ordine, allora ti conviene chiudere, capito? Perché nessuno è fesso. Vabbè, dai, riprendi Fabio, Riccardino mi sembra, riprendi. Sentiamo per un attimo, guarda, stai chiamando mia moglie. Ok, grazie Claudio, sì, sono qui, sono tornato. Tutti scomparsi, avanti Fabio! Sono qui col pennellino che sto rifinendo questo gioiellino. Grazie di nuovo. Riccardis, non è se non scopparsi, se tu non rilanci, chi è che prende il mic? Scusate, colpa mia, sempre colpa mia, ho sbagliato. No, sappi che quando vuoi rilanciare una persona lo rilanci. Cosa so se io riprendo, poi voleva parlare un altro, io mi sto zitto come penso anche gli altri, non schiacciano, capito? Il microfono per parlare. È una cosa di correttezza che giustamente rilancio Riccardo, rilancio pure Gianni, capito? Sì, va bene. Non è successo niente, dai, tranquillo. Allora, io voglio ti rilanciare. Vediamo chi c'è, chi ci può essere, che interessa. Avanti Angelo Delfino. Togli. E che dice l'Angelo Delfino? Alla grande che sono di Angelo Delfino io. Un po' duro. Sei rimasto l'eco in frequenza. E che non lo vuole prendere la chino rosso. Se no, la vecchia compagnia. Avanti Delfino. Cappa di cattivo. Ma provate almeno l'hai acceso oppure no ancora? Ma che l'ho accesa, è un gioiello, è bella sensibile, un po' poco selettiva, però non importa, prende bene segnali lontani, un gioiello, veramente, grazie mille, troppo bella. Non l'ho neanche mai accesa, non l'ho mai provata. Vabbè, è un genere particolare, cioè se sei veramente appassionato oppure ti rompi le scatole a girare per la stella, se non capisci dove sei, 9-3, 9-4, di certo non è girare la manopola di quella bestia che c'è davanti al naso, anzi di sulla destra. Già l'ho visto, comunque è bello, non c'è problema, tanto non ascolto mai musica con quello, uso quello che piace a te. Quello è un bel apparecchietto. Hai visto che come genere è simile al mio, no? Solo che è qualcosina... Tony, chiedilo! Non lo so. Questa se la gioca, no? Diciamoci la verità. Fabio. Scappa. Tu te ne intendi un po' di baracchino? Un po'. Io ho il baracchino che non c'ha ricezione. Scappa, che cos'è? Che cacchio di marca è? Albrecchi. Un Intec da base, Fabio. Non c'è scritto Intec. No. No. Scappa, un Albrecht, ho capito. Un Albrecht AE 8000. Mandami la fotografia che la mando a Fabio. Aspetta. Come che non ti ho sentito? Fabio. Insomma, non lo faccio vedere. Visto che ne hai uno diverso di quelle. Vedi, a K ti mando le foto anche del coso, del pannellino del camper. Domani faccio un po' di foto, ti faccio un pacchetto e te le mando. Volentieri, molto volentieri. Tony, non ti ho capito, no? Aspetta, ha fatto la foto, te la mando a Gianni, poi Gianni te la mando a te. Ah, K. L'hai provato a vedere se esce? No, non ci ho provato la verità, perché c'è uno spinato particolare. Sono 2, 3, 4, 5, 6 punte. Uno centrale. 5-6 punti. K. Sì, non provarlo perché se non riceve. Potrebbe essere una fesseria, però se è qualcosa che ci ha salutato all'ingresso dello stadio RF, c'è la possibilità che magari adesso solo uno riceve. Quello ma l'importante è di cuoci anche la trasmissione, capito? Sì, ma vediamolo in ricezione, che è stata in ricezione. Dopodiché vediamo il resto. Ok. Fabio, quando mi mandi le foto fammi vedere anche come l'hai trasformato da come lo tenevo io, che non lo usavo, a come l'hai trattato tu. Ehi, accampano, guarda, ho ricatto un pennellino in tutte quelle righette, capito? La rottura di palle è pulire quelle righette, vado pulita piano piano e questa è solo la prima pulita, così la prima grossata. Poi si deve fare in 2-3-4 volte la pulizia completa, non conviene neanche andarci un po' come la macchina quando è molto sporca, non conviene che te la fai finita pulita, ci dai una lavata e il giorno dopo ce ne dai un'altra e così per gli apparecchi, se no inizi magari a lasciare qualche segno, a cancellare le scritte, siccome è bellina bellina e nuova nuova nuova, questa esce veramente la vetrina, sembra di tornare negli anni 70. La cosa divertente che mi ha fatto vedere quando stavi sbavando, quando l'hai vista, quel babbo ti ha detto te la regalo. Ehi, non ci stavo neanche pensando potesse fare una cosa del genere, mi ha preso in contropiede di brutto, eh. visto come hai fatto? Oh Gianni, dimmi. L'hai visto? Sei punte con quel microfono. Glielo ho già mandato. Perché c'è l'up down quello lì sicuramente. Comunque io ho notato un piccolo difetto su Riccardino quando modula, non so se che voi ci avete notato, quando schiaccia il microfono Riccardo per parlare, qualche millesimo di secondo è silenzioso e poi riprende la voce. Sì, l'ho notato anche io, l'abbiamo anche detto che deve aspettare perché se no li mangia la prima lente. Praticamente sì, quel PC si è stato un secondo, avete ragione, lo dimentico sempre. Aspetta, fa fretta di parlare, Fabio, l'ho ricevuto. Oh, abbiamo parlato insieme, cioè mi avete parlato sopra involontariamente. Troppo bellino, Tony, veramente bello questo apparecchio. Sì, piace anche a me, per quello che l'ho fatto prendere dal mio figliuccio, me l'ha fatto dare. Scappa, va bene, con delicatezza, vediamo un attimo che cosa, proprio con, in maniera molto soft, capito? E una volta che capiamo che cosa, insomma, vediamo di farlo andare. Vabbè, noi ci conosciamo, ci prendiamo un brasiliano, un caffè, quello per voi. Non domani, perché domani io sono fuori al muro. Campa, anche per me domani è un giorno a giornata campale. Domani ho un appuntamento importante con un dottore, capito? Per mamma, speriamo bene. E niente, vabbè, se poi ci spostiamo semplicemente a domani. Campa, a mille per mille, tanto Gianni già lo sai dove sì, no? Sì, campa, ma ci troviamo magari pure con lui, se per caso vuole lasciare senza compagnia il suo cagnotto per una mezz'oretta, ci prendiamo un caffè insieme tutti quanti. Benissimo, anche, mi piacciono queste cose. Campa, non c'è problema, Gianni, per me è sempre un piacere, guarda. Io da domani inizio alle 11:30 la fisioterapia, mi hanno chiamato stasera e dopo che ho già abilitato la gamba mi fanno la fisioterapia, capito? Dopo che io ho già... Vabbè, comunque l'accetto perché il mio dottore quando sono andato a fare l'ultima visita mi ha scritto si consiglia fisioterapia, quindi ben venga, la faccio anche gratis. Sì, ma di sera sei libero, sì? Sì, di sera sì, certo. La mattina alle 11:30 che viene questo qua, fa un'ora di fisioterapia, mezzogiorno e mezzo si nata. Fabio, ti va bene pomeriggio, dopo domani? Allora, dopo domani che giorno è? Beh, dopo domani, giustamente giovedì. Giovedì 11, perfetto. Sì, pomeriggio va bene, anzi me lo segno pure. Cappa. Perché giovedì mattina ci sono le promozioni alla Lidl e io vado a prendere un altro po' di cose perché so che mi arriva qualcosa che mi interessa. Io vado alla Lidl sia il lunedì che il giovedì, ci sono le promozioni. Ah sì, ma che promozioni ci sono? Che patrizi? Sì, attrezzatura. Allora, mio figlio mi ha detto che sono esagerato, io ho tante quella cosa ma di attrezzatura tripla, quadrupla, sono sempre comprato. Adesso ho visto che giovedì mettono questo abitatore, se vi la marca tedesca, che ha 20 volts, quindi mi interessa moltissimo, e io ne ho altre tre, buone, buone veramente, però mi piace il modello, me lo prendo. Ma parliamo pure, ho preso da poco una circolare dal banco, enorme, bella, già piazzata, usata, sono troppo contento. Un'altra cartrice l'ho presa da Bicomer però. E insomma, mi direi a fare un po' di mobiletti, me ne sono fatto ancora grandi, un po' piccoli. E il mobiletto che faccio la trazione io, me lo sono autocostruito io, ideato su carta e poi ricostruito, comprato in legname e fatto. Campa. Il mio meccanico ha preso degli attrezzi ed è rimasto molto, molto, molto contento di alcune cose particolari. Sì, sono buoni, dai. Vediamo se è entrato. Roberto, ci sei? Cosa, non ho capito, scusa. Stai parlando a me? Ho detto, sei rientrato Roberto? Anche io ho preso l'aspirapolvere per la macchina e ti dico che sono veramente contento. Aspira anche le pietre grosse. Oh già. Se aspira anche la sua, cioè va bene. No, praticamente l'ho pagato 12 euro, pensavo che fosse una fesseria, invece ce l'ho un po' di anni, funziona bene, se l'avessi saputo ne avrei preso due. E infatti questo abitatore, perché il prezzo è ultimo, ne compro due io. E adesso vengo, mi pare che vengo con te, me lo compro anch'io l'abitatore, ma si può usare anche come trappolo, sì. Certo. certo. Ho messo anche la percussione, se non vado errato, con la batteria, meno veramente, perché ce l'ha mia nipote, lui ha il 12 volte, dice cazzo sì, 20, questo è superiore al mio, molto bello, io usavo il suo, caspa quanto è bello, trovo il pianeta, mi sono innamorato, neanche fa la posta, l'hanno rimesso per giovedì, il giorno 11, e io ho detto lui, sì, guarda, dico vieni a comprarlo, certo ne compro due, perché due, ma mi va bene due, insomma, domani ci faccio il giurato. Perché no già? Vengo, ti prendo e andiamo. E quando andiamo là a prendere a cosa? Andiamo tutti e tre insieme, pure. No, aspetta. Se tu, caro Gianni, vai di sera, furo la ciabe più nuda, io vado all'apertura, presto. Arrivo. Cosa? Decidete sempre di prendere un abitatore che funziona bene con l'abitatore e un trappolo che funziona bene al trappolo. Fidatevi di me che qualche centinaia di migliaia di euro e li ho comprati. Io ce l'ho il trapano, ti spiego, c'ho la percussione, c'ho un Black Decker, ma di quelli grandi. E a volte mi serve un trapano piccolo per fare lavori in piccolo, grazie a un tratta che si vuole.